A bordo campo di Dario Ricci. Voleva vincere un mazzo di fiori per la sua mamma Luca, un atleta davvero particolare di 17 anni, perché aveva visto che sul podio delle gare di canottaggio a cui partecipava premiano così, dando una medaglia e un mazzo di fiori. Ebbene, a forza di vogare, Luca a quella vittoria c'era davvero arrivato vicino. Un problema però: Luca è un ragazzo autistico e fino a quel momento, malgrado i tanti anni di scuola, non aveva mai imparato a contare. Un limite che quel pomeriggio gli costò la vittoria. Ebbene, tanto fu il dispiacere che Luca da quel giorno ha imparato a contare e a forza di vogate ha imparato anche a vincere. Questa è la storia che ci è stata segnalata qui a bordo campo dagli amici della canottieri Ilario di Como e dell'Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio. Una storia che è emblematica di un mondo che oggi vi proviamo a raccontarvi qui a bordo campo. Il mondo dell'adaptive rowing, cioè del canottaggio riservato ai disabili mentali e fisici. Siamo andati sulle rive del lago di Como per scoprire questo pezzo d'Italia, perché questa non è solo una storia di sport, ma la storia di un paese che, malgrado tutto, malgrado le sue contraddizioni, riesce in questo caso a mettere in acqua anche piccoli e grandi miracoli. Sì, perché la canottieri Ilario, insieme in collaborazione con l'Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio, da alcuni anni ha sviluppato proprio questa sezione di canottaggio dedicato ai disabili mentali e fisici e coinvolgendo proprio i ragazzi dell'Istituto Villa Santa Maria in questa attività. E allora abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti di questa storia e di questo percorso, a partire da quello che è un po' uno dei motori primi dell'iniziativa, Fausto Panizza, allenatore e fisioterapista di questi atleti davvero particolari. Sentite cosa ci ha raccontato. Sì, sono tanti poi i ragazzi che noi abbiamo pian piano inserito in questo progetto. È un progetto che è iniziato 6 anni fa, spronati dal dottor Poli, campione olimpico nell'88 a Seul col 4 di coppia e medico della nazionale di canottaggio settore adapti. Diciamo che ci ha seguito fin dall'inizio, ci ha dato tantissimi consigli sia lui che anche il commissario tecnico in carica fino all'anno scorso a novembre, Paolo Agrizzetti, che ci ha subito voluto bene e ci ha subito seguito con un occhio di riguardo, ecco, ci ha dato tantissimi consigli. Poi abbiamo avuto questo gemellaggio con la canottieri Ilario e hanno subito visto in noi qualcosa di speciale. Qual è il valore aggiunto, la particolarità, la peculiarità che il canottaggio può dare a ragazzi come Luca, Cristian, Matteo? Loro con questo progetto hanno iniziato a essere stimolati molto nel stare insieme, nel raggiungere piccoli obiettivi che noi ci davamo così di mese in mese, andando poi anche a controllare con dei tempi. Registriamo qualsiasi cosa, qualsiasi allenamento viene registrato su un quaderno e abbiamo pensato che l'obiettivo principale era quello di farli divertire, di farli uscire dall'istituto, di farli socializzare con altre persone, sia con dei problemi ma anche normodotati, e siamo riusciti veramente a ottenere questo. Poi abbiamo questi ragazzi che remano su una barca a 4, un 4 con, per cui un remo a testa, e la cosa che più mi ha reso felice è vederli che tutti assieme vanno con lo stesso ritmo e portano all'arrivo questa imbarcazione, una cosa stupenda. Una collaborazione, quella tra l'Istituto Villa Santa Maria e la canottieri Ilario, che chiaramente ha anche dei risvolti agonistici, perché gli atleti dell'Istituto partecipano a gare nazionali, internazionali, ma chiaramente l'obiettivo non sono solamente podi e medaglie, ma è anche un obiettivo finalizzato a migliorare la qualità della vita quotidiana di questi ragazzi. Così come ci ha spiegato Enzo Molteni, il presidente della canottieri Ilario. L'abbiamo incontrato proprio nella sede della canottieri. Ma guarda, questa è una storia che mi ha dato tantissimo in termini proprio di arricchimento personale, di emozioni, di sensazioni, di affetto. È cominciata nel 2006 con un disabile che era reduce da un coma di 6 mesi dopo un gravissimo incidente stradale. E lui, con lui abbiamo iniziato piano piano ad prendere altri disabili, soprattutto disabili mentali, grazie a un accordo con l'Istituto Santa Maria, che ci ha portato dei ragazzi meravigliosi. Tra l'altro, quando li ho visti per la prima volta in Vasca Voga, noi abbiamo una vasca voga dove si imparano i fondamentali del canottaggio, mi pareva proprio che fosse la famosa Mission Impossible, metterli in grado di remare assieme, e tutti, perché volavano remi e spruzzi d'acqua da tutte le parti. Ebbene, nel giro di 2 anni questi ragazzi sono vice campioni d'Italia nel 4 con. Qual è la risposta delle istituzioni, qual è la risposta del territorio? Guarda, sinceramente, fino a che la provincia esisteva, la provincia di Como esisteva, abbiamo avuto degli aiuti concreti dall'assessore ai servizi sociali Simona Saladini. Ci hanno dato delle barche, ci hanno aiutato per attrezzare i nostri ragazzi. Dico delle barche perché è lo strumento con cui i ragazzi escono sul lago. E sono... va anche sottolineato, come sta facendo Presidente, che non sono le stesse barche dei normodotati, sono barche che devono essere adattate. Assolutamente, si chiama proprio adaptive rowing, il canottaggio dei disabili, proprio perché richiede delle barche particolari studiate in modo tale che non succedano degli incidenti, per esempio dei galleggianti ai lati di una barca singola, vanno legati nel caso di paraplegici che non possono utilizzare le gambe, eccetera. Quindi effettivamente servono tanti mezzi. Diciamo che anche Como, anche il comune di Como con il nuovo sindaco ci seguono con molta simpatia. Io veramente mi auguro che alla simpatia presto si aggiunga qualche aiuto concreto, perché ne abbiamo estremamente bisogno, e per aiutare gli allenatori e per prendere altre barche. Paolo Tornari è invece il presidente della sezione disabili della canottieri Ilario. Ci ha spiegato quali sono le caratteristiche della collaborazione con l'Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio e soprattutto quali sono le specificità del connubio tra canottaggio e disabilità mentale, così da sviluppare programmi e progetti ad hoc per migliorare l'effettiva qualità della vita di questi atleti. Il canottaggio di per sé ha un valore importante, che è quello della aggregazione sociale sotto il punto di vista sportivo. Sembra una banalità, ma per molti di questi ragazzi anche il fatto di avere il coraggio di essere invitati a stare in mezzo ad altri ragazzi, a condividere un momento di sport, è già un obiettivo. Oltre questo, nello specifico, il canottaggio presenta per questi ragazzi portatori di handicap mentale un atteggiamento di allenamento e di disciplina sportiva che porta alla reiterazione del movimento, quindi la ripetizione imposta è un'azione propedeutica perché il ragazzo non perda l'attenzione. Il deficit attentivo dei ragazzi portatori di handicap mentale è una delle loro problematiche maggiori. L'essere attenti e tenaci a non perdere il ritmo del proprio vicino di barca, l'obiettivo di arrivare in fondo ad un'attività sportiva, ad un percorso di gara, un percorso di allenamento, aiuta proprio il processo mentale di questi ragazzi alla sofferenza, al sacrificio, alla determinazione, ad aumentare la tensione. Questo ha un beneficio innegabile sotto il punto di vista sportivo, ma anche sotto il punto di vista sociale, perché questo consente a questi ragazzi di aumentare, di incrementare la capacità di socializzazione e di attitudine a determinati piccoli impegni che possono essere quello sportivo o quello professionale per chi riesce a fare qualche piccolo lavoro nell'ambito delle proprie comunità protette o nei nuclei familiari per quei pochi privilegiati che se la possono ancora permettere. Una storia, quella che ci arriva dal lago di Como, che testimonia soprattutto quanto lo sport possa svolgere un ruolo sociale e terapeutico, mi viene da dire, chiave. Così come ci ha spiegato il professor Enzo Grossi, che dell'Istituto Villa Santa Maria è il direttore scientifico. Ma lo sport è sicuramente una delle risorse disponibili per poter migliorare la funzione intellettiva di questi soggetti, la salute fisica, ma soprattutto direi la qualità di vita. Solo negli ultimi anni si è potuto capire che uno degli obiettivi primari degli interventi di riabilitazione in caso di disabilità intellettiva è soprattutto quello di migliorare la qualità di vita, perché purtroppo la maggior parte di queste sindromi sono forme di deterioramento non suscettibile di una cosiddetta restitutio ad integrum, quindi non c'è la possibilità di ritornare ad essere normali. Ma l'attività fisica e l'attività sportiva ha un ruolo sempre più importante che ha anche delle basi neurobiologiche molto forti. Ci sono degli studi negli ultimi anni che dimostrano che l'attività fisica è in grado di stimolare la rigenerazione neuronale del cervello. Lo si è visto soprattutto in forme di demenza senile, ma anche in sindromi come quella dell'autismo ci si può ragionevolmente aspettare che sia grazie agli stimoli metabolici che a quelli emotivi connessi all'attività sportiva possa essere un beneficio tangibile, che quindi può permettere di migliorare la funzione di questi soggetti. A bordo campo. Beh, oggi andiamo in libreria a bordo campo, con un libro davvero particolare che ci permette di raccontare una storia lunga 100 anni e anche un personaggio che è il personaggio vecchio nuovo della prossima stagione calcistica. Allora, il titolo, mi raccomando, tappate le orecchie ai bambini, perché il titolo è fortemente allusivo, ha anche una coloritura erotica che sicuramente non guasta, ma di calcio parliamo. 20 sfumature di amaranto è il libro di cui parliamo oggi, La Ruffa editore, gli autori Anna Briante ed Emilio Buttaro. Emilio, voce storica dello sport e non solo di Radio 24, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, Dario, e a tutti gli ascoltatori. Anna, ben ritrovata qui ad A Bordo Campo. Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Allora, dicevamo, partiamo perché il titolo mi incuriosisce troppo, non posso non partire da Anna, perché insomma, 20 sfumature di amaranto, spiegaci un po' qual è il trucco che ci porta a parlare da un titolo così stuzzicante a un argomento altrettanto divertente, che sono però i 100 anni ormai imminenti degli amaranto per eccellenza, cioè della Regina Calcio. Beh, sicuramente il titolo riecheggia un po' qualche altro titolo che ultimamente è andato a ruba in libreria, insomma dei libri molto particolari che alle donne sono piaciuti molto. E siccome il calcio piace molto alle donne, ho detto perché no, dedichiamo anche a loro questo titolo, perché come mogli, come tifose, come diciamo compagne di dirigenti, di presidenti, hanno un ruolo molto importante nel mondo del calcio, però ovviamente loro non c'entrano, perché i protagonisti sono tutti uomini, sono 20 uomini calciatori, allenatori, presidenti che hanno fatto un po' la storia della nostra squadra di calcio, la Regina, la squadra di Reggio Calabria, che è arrivata a 100 anni, insomma, poi capelli bianchi. Complimenti, però, e auguri, insomma. Grazie, grazie, però si sente in forma, ecco, diciamo che in questo momento la vediamo rinvigorita. Beh, tra l'altro, Emilio, realizzate questo percorso a ritroso nel tempo fino ai giorni nostri, fino alla storia attuale della regina, ecco, mi viene una curiosità, avendo sfogliato solo poche pagine ancora, qual è il calciatore dei primordi che più va colpito di questa storia della regina, proprio dei primissimi anni del calcio regino? Ma guarda Dario, noi abbiamo trattato, appunto come si diceva prima con Anna, abbiamo focalizzato l'attenzione facendo ovviamente dei riferimenti su questi 100 anni di storia, tanto, ma focalizzando l'attenzione sugli ultimi 5 o 6 decenni. E quindi diciamo il personaggio che forse ha destato per certi versi più l'attenzione, o comunque una delle storie sicuramente più affascinanti, è quella di Oreste Granillo, evidentissimo certo. Oreste Granillo, che è anche l'ex presidente della regina, il cui nome è anche dato titolo allo stadio attuale di Reggio Calabria. Una storia davvero molto affascinante la sua, di un calcio sicuramente lontano, il calcio anche di Tommaso Maestrelli, un altro dei personaggi, un altro grandissimo. Esatto, che andiamo a raccontare, che per poco diciamo che ha sfiorato anche la panchina di commissario tecnico della nazionale. Ecco, lui perché a Reggio Calabria quando ci è passato, che tipo di esperienza ha vissuto? Mi manca questo. Quella di Maestrelli? Sì, sì, sì. Sì, Maestrelli è arrivato a Reggio Calabria quasi per caso, con una sorta di accordo proprio con Oreste Granillo, ha regalato dei momenti importantissimi alla regina e altri personaggi che noi abbiamo interpellato proprio per questi 20 sfumature di amaranto. Ci raccontavano proprio di uno stadio davvero all'epoca in ogni ordine di posti. Erano gli anni 60 e 70, è arrivata la regina, è riuscito a portarla in Serie B, ha sfiorato anche la promozione nel campionato di massima serie, prima di andare ad ottenere degli altri importanti successi, i più importanti dei quali ovviamente sulla panchina della Lazio, ma è stato davvero un personaggio amatissimo. E noi quando abbiamo sentito dei giocatori, da Jacoboni a Sbano, ci raccontano anche di un allenatore che ha inventato proprio delle tecniche che oggi sembrano moderne, per esempio ci dicevano quelle dei terzini che scendono, che già da qualche anno che scendono e che poi rientrano, e che già ormai da tempo si adottano, quando già queste tecniche di gioco sembravano moderne, lui invece le aveva già realizzate con la regina, ma anche con altre squadre con le quali ha ottenuto degli importanti risultati. Beh, personaggio straordinario quello di Maestrelli, così come straordinaria fu quella stagione, Anna, in cui un altro grande allenatore, che è, l'ho detto all'inizio, forse il personaggio nuovo, vecchio, più atteso di questa nuova stagione calcistica, cioè Walter Mazzarri, ebbene, ha vissuto Mazzarri proprio a Reggio Calabria quella che non esito a definire la sua più grande stagione calcistica, no Anna? Noi lo abbiamo sottotitolato il suo capitolo il mister dei miracoli, perché in realtà quello che ha fatto Reggio Calabria è stato proprio un miracolo. Lui è stato qua dal 2004 al 2007, quindi se vogliamo non è che abbia avuto una lunghissima permanenza, però la sua presenza è stata davvero efficace. È arrivato giovanissimo, se vogliamo, nonostante tutto ha sempre avuto un comportamento molto serioso, a volte apparentemente accigliato, però la sua schiettezza e la sua pragmaticità ha colpito un po' tutti, e lui è riuscito a portare la regina in Serie A partendo da un passivo di 11 punti di penalizzazione, qualcosa in cui nessuno ci sperava proprio, davvero davvero un miracolo. Assolutamente un'impresa che vale uno scudetto, direi. Eh sì, è il suo scudetto. Lui dice sempre di essere contentissimo di aver portato il suo Livorno in Serie A, però quella della regina, la promozione della regina ha un sapore davvero molto particolare. Tra l'altro ti chiedo, adesso Mazzarri è atteso chiaramente alla prova del 9 a Milano dopo l'esperienza napoletana, dopo la Sampdoria. Ecco, qual è il tratto distintivo che riconosci nel Mazzarri di oggi rispetto a quello che avete conosciuto e che avete raccontato in questo libro e che ha vissuto e che visse l'esperienza di Reggio Calabria? Guarda, secondo me la sua caratteristica principale e anche la più importante è la sua schiettezza. Mazzarri ha sempre avuto in linea di massimo un rapporto molto bello con i giornalisti, e non è sempre facile, tu mi insegnerai. E lui è stato sempre, diciamo, nel cuore dei giornalisti, perché ha sempre detto ciò che pensava, anche, diciamo, in maniera abbastanza decisa e forte. Per cui secondo me non avrà sicuramente il timore riverenziale nei confronti di questa nuova società che lo ha accolto, nonostante lui abbia dichiarato nei giorni vicini alla, diciamo, al suo ingaggio, di essere stato davvero super emozionato, forse incredulo, nell'aver ricevuto questa telefonata che poi lo ha portato a questa nuova avventura. Però secondo me la sua schiettezza, la sua genuinità è il tratto che lo ha contraddistinto e che gli dà quella marcia in più, quel carattere, diciamo, di condottiero indomito che l'ha caratterizzato qui da noi, che sicuramente lo porterà ancora lontano. Senti, per evitare qualsiasi ritratto agiografico, però questo Mazzarri si è fatto pure la fama del piagnone, insomma, a Napoli, perché sempre un po' contro i poteri forti, il rigore, sempre con quel dire non dire, pure a Reggio Calabria era così, o insomma, fama immeritata secondo te? No, dai, assolutamente. Era uno che la partita la sentiva e voleva vincere a tutti i costi. Ecco, la partita la voleva vincere a tutti i costi, per cui alcune volte si impuntava su alcune decisioni, ma sempre in modo molto, diciamo, molto onesto. Ecco, secondo me lui era convinto delle sue piccole polemiche, allora come oggi. Eh sì, ci piace così sanguigno Walter Mazzarri, che sicuramente porta una nota di novità sulla panchina nerazzurra, e staremo a vedere cosa riuscirà a fare con questa nuova Inter, nuova tutta di zecca. Emilio Buttaro, beh, dicevamo grandi tecnici, ma anche grandi giocatori, quelli che sono passati per Reggio Calabria con quella splendida e gloriosa maglia amaranto. Quello che ti è rimasto più nel cuore, Emilio, nello scrivere questo libro? Ma ecco, Dario, intanto ecco, vorrei sottolineare l'entusiasmo che c'è stato da parte di tutti o quasi quelli, i personaggi che noi abbiamo contattato, oppure da chi abbiamo contattato per farci di raccontare, come purtroppo per alcuni personaggi che non ci sono più, come Maestrelli o come lo stesso Granillo. Però per esempio l'entusiasmo di Massimo Orlando, quando lo abbiamo contattato, ha ricordato davvero i tempi di Reggio come dei tempi favolosi. Ha ricordato anche l'aneddoto di quando a Reggio Calabria, in occasione di una partita col Pescara, la società ha anche invitato i suoi genitori, che si sono poi commossi in una partita in cui lui è stato il peggiore in campo, lui che usciva sempre con un 10 in pagella. E poi anche Pianca, che è stato a Reggio Calabria negli anni 70, come dire, il simbolo della città. Pianca era quasi una filosofia di vita nella città dello Stretto. E se mi consenti, Dario, volevo ricordare anche qualche altro personaggio che abbiamo trattato in questa pubblicazione, che parte da Alfredo Aietti e in ordine alfabetico arriva a Nevio Scala. Ecco, da Aietti, che è stato l'attaccante fino a conquistato la promozione in Serie B a metà degli anni 90, fino a Nevio Scala, un altro tecnico importantissimo della Regina, con cui la squadra amaranto è tornata in Serie B dopo tantissimi anni, e poi ha sfiorato nello spareggio con la Cremonese la promozione nel campionato di massima serie. Poi in mezzo ci sono tanti altri personaggi, come Nicolò Russo, che molti in Riva allo Stretto considerano ancora come il miglior attaccante che la Regina abbia mai avuto, e ancora... Sì. È davvero una fila, non diciamoli tutti, Emilio, se no poi qua non leggiamo il libro, lasciamo un po' di curiosità ai nostri ascoltatori. Allora, 20 sfumature di amaranto, La Ruffa Editore, una lettura che vi suggerisco anche perché, ringraziando gli autori Anna Briante ed Emilio Buttaro, ci fa vedere, ci fa conoscere, mette in luce un aspetto diverso, nuovo, inedito di una Calabria che spesso è invece sulle prime pagine dei giornali per tutt'altri e certo meno gloriosi motivi. Ebbene, la Calabria è anche Reggio Calabria, la sua maglietta amaranto, la sua squadra di calcio, la Regina Calcio. A voi buona lettura. Allora, un grazie ancora ad Anna Briante ed Emilio Buttaro, e tanti auguri da parte nostra, da parte di A Bordo Campo, alla Regina Calcio per i suoi 100 anni. Grazie, a presto, Dario, un abbraccio. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulle nostre pagine web. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.